prima edizione. 6, 14 minuti e 20 secondi, una notizia appena battuta dalle agenzie che arriva da i carabinieri del ROS che a quanto pare si sta, come si dice in gergo, stringendo il cerchio attorno a Matteo Messina Denaro, super latitante di Cosa Nostra. Dall'alba in corso un'operazione che ha riguardato la famiglia mafiosa di Campobello di Mazara nel Trapanese, ritenuta una delle ultime roccaforti da ricercato numero uno. In manette ci sono 11 persone, tra cui lo stesso sindaco di Campobello. Prima edizione. 17 minuti e 14 secondi, andiamo a dare un'occhiata a quello che troviamo oggi sulle prime pagine dei quotidiani italiani e poi magari anche un'occhiata a quelle che sono le home page quantomeno dei principali quotidiani esteri, per capire anche cosa succede nel mondo. Il Sole 24 Ore, l'apertura è sulle pensioni, la guida ai blocchi e alle deroghe, e però si parla anche della cronaca della manovra all'interno del sommario dell'occhiello, ossia quella specie, per intenderci, piccolo titolo che c'è sopra al titolo vero e proprio. Oggi alla Camera il sì con fiducia al decreto, vi si legge giallo sulla norma che consente al governo di fissare un tetto allo stipendio degli statali, e poi edicole verso la serrata. Si parla della tassa sul tabacco, in realtà sono salve le sigarette perché riguarda solamente il trinciato, e Monti che dice ora lo sviluppo sulle liberalizzazioni, una nuova offensiva. C'è anche un titolo dedicato al Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che dice il credito è sotto pressione, evitare la stretta. Nel frattempo si parla del successo per l'asta spagnola a 5 anni, e un titolo dedicato anche alle parole dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Berlusconi, premier disperato, pronti al voto. Il commento in prima pagina a firma di Lina Palmerini è toni alti contro il rischio limbo. Si parla appunto della mossa del Cavaliere. Da segnalare sempre in prima pagina riguardo alla manovra, il commento di prima è a firma di Alberto Orioli, crescita e liberalizzazioni, la cambiale da pagare. E poi a centropagina le stime di Confindustria. Confindustria, Italia in recessione, nel 2012 PIL a meno 1,6, 800.000 posti in meno a fine 2013. Passera, il ministro Passera che dice impegno sulla produttività, e poi il commento di prima pagina è a firma del direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi. Le stime 2012 parlano di un meno 1,5% per il rapporto deficit PIL, all'8,6 il tasso di disoccupazione, un meno 1 per il trend dei consumi. Questo il quadro per quanto riguarda la prima pagina del Sole 24 Ore, che oggi presenta anche un dossier di 26 pagine per capire tutte le novità. Veniamo al Corriere della Sera, che apre con Monti avanti tra le ostilità, Lega in rivolta, Berlusconi premier disperato, non so se dura. Questo il titolo scelto dal Corriere della Sera. Oggi la fiducia sulla manovra, Confindustria, paese in recessione, Passera misure per la crescita. Questo è quello che abbiamo sentito anche dal Sole 24 Ore. Il commento di prima è a firma di Aldo Cazzullo ed è Unità Nazionale, aperta parentesi, all'opposizione, chiusa parentesi, dove insomma si segnala evidentemente quel certo grado di problemi che si stanno verificando adesso, e di contraddizioni che si stanno verificando all'interno di questa nuova maggioranza. Una lettera aperta di Massimo Franco, insulti e gazzarre, Maroni, lei che dice, e quindi indirizzata al ministro dell'interno. E da segnalare a centropagina, sempre in merito alla manovra, i rincari record per verdura, frutta, formaggi e caffè. 1000 euro in più l'anno solo per riempire il carrello della spesa e la scure della crisi sulle famiglie. A centropagina la foto della maina bandiera americano a Baghdad, in un certo qual modo un momento storico. E poi c'è la condanna per Chirac, 2 anni per corruzione. La trattativa tra Stato e mafia. Sono state perquisite le case di Lino Iannuzzi. La Repubblica Apertura, è un virgolettato di Monti, è un, sono quindi parole del Presidente del Consiglio, liberalizzazioni, piegheremo le lobby. Catricalà che dice andiamo avanti, Confindustria, scusate, il virgolettato è, perdonate, proprio di Catricalà in realtà, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Presidente dell'Antitrust. Catricalà che dice andiamo avanti, Confindustria che dice recessione, Berlusconi parla di Monti disperato e cita Mussolini, commento di prima pagina a firma di Massimo Giannini che parla di democrazia economica e invece Francesco Merlo parla del caso Bossi, il richiamo della foresta. In, a centropagina c'è una questione che riguarda il ministro della giustizia Paola Severino che presenta oggi al Consiglio dei Ministri il pacchetto carceri e il titolo è detenuti in questura per svuotare le carceri. La misura riguarderà i processati per direttissima. C'è un'intervista al candidato socialista all'Eliseo, Hollande, che parla invece dei temi europei, dice che va cancellato il patto Sarko-Merkel e vuole che Roma torni protagonista nell'Unione Europea. Questo è il quadro per quanto riguarda la Repubblica. L'apertura della Stampa è invece su Confindustria, sulle previsioni di Confindustria, che dice l'Italia è già in recessione. Il commento di prima pagina firma di un economista, di Mario De Aglio, che dice che si intitola una cura psicologica per la crisi. Presenta la Stampa di oggi un'intervista al ministro degli esteri Giulio Terzi. Il paese ora è credibile e torna a contare, dice, il mondo ha capito la nostra serietà, per salvare l'euro serve l'aiuto degli americani e per farlo da Obama arriva un sostegno forte e limpido. Il caso, c'è un pezzo firmato da Marco Alfieri e Daniele Marini. La Lega urla a Roma e dialogo a Nord-Est. Maroni parla agli industriali e dice non bastano gli spadoni. Allora, andiamo sul Messaggero adesso per chiudere la parte italiana. Ancora la manovra si vuota tra le polemiche, bagarre della Lega alla Camera, Berlusconi, Monti disperato, non è detto che duri. C'è un retroscena dove si parla sempre di Catricalà, che dice a gennaio una legge per le liberalizzazioni. Si dice che Mario Monti abbia definito lo stop alle liberalizzazioni un'imboscata e si sia sfogato, abbiamo subito un enorme danno d'immagine, sembra che le lobby l'abbiano fatta da padrone ed è passato quasi in secondo piano il grande lavoro che abbiamo fatto. A centropagina il governo vara il piano contro l'emergenza carceri del quale vi abbiamo parlato. C'è la sentenza per quanto riguarda Crespi, il crack della HDC, 7 anni a Crespi, assolto con Falonieri, e un titolo anche sul nuovo pacco esplosivo ad Equitalia. Questo mi sembra il quadro generale per quanto riguarda il Messaggero e la Stampa italiana. Vi segnalo che in questo momento i siti dei quotidiani americani stanno dando come flash, ed è anche una notizia che vi diamo a questo punto, la morte di Christopher Hitchens, giornalista, saggista, critico letterario, commentatore politico, insomma, ne avrete sentito parlare e ne avrete letto molto. Vedremo se saremo in grado nel corso poi della mattinata di approfondire anche questo. Intanto veniamo poi ai temi più generali. Il New York Times apre con la fine della guerra in Iraq, dice che si lascia un Iraq incerto. C'è da segnalare che insomma si sta sostanzialmente concludendo, si è da poco concluso il dibattito tra i repubblicani, un nuovo dibattito tra i repubblicani, a quanto sembra un po' più soft rispetto alle altre volte, con meno scontri personali quantomeno. Il Financial Times sceglie come apertura le parole di Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale. Che cosa dice? dice la Lagarde? La Lagarde avverte, ci sono minacce di una depressione stile anni 30, e poi parla contro l'isolamento, insomma, probabilmente un qualche riferimento alla Gran Bretagna. Questo per quanto riguarda il Financial Times, che parla anche della Banca Centrale Europea, e dice che ci sono dubbi sulle mosse che farà la Banca Centrale Europea per incrementare gli acquisti di titoli di Stato. Allora, il Wall Street Journal parla ancora in apertura delle paure che riguardano l'Europa, e c'è una questione interessante, nel senso che racconta il Wall Street Journal che molte banche europee e molti investitori istituzionali adesso vogliono comprare titoli di Stato solamente se sono dei loro paesi o di mercati sicuri, che è una cattiva notizia naturalmente per i paesi altamente indebitati. Questo in breve quello che vi vogliamo dare oggi dai quotidiani internazionali. Allora, ci fermiamo, ci ritroviamo subito dopo per darvi un quadro ancora una volta delle notizie e per sentire come vanno le cose dal punto di vista del tempo, perché come sapete sta arrivando una bella ondata di freddo. Ne parleremo tra poco e poi faremo anche il punto sullo sciopero. Prima edizione. 6:34 minuti e 28 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. E la mattina di Radio 24 vi parla Daniele Biacchessi. Mancano pochi giorni a Natale e oggi trasmettiamo un mini reportage di Maria Luisa Pezzali con l'anticipazione sulle tendenze e i consumi degli italiani in tempo di crisi. Mi scusi signore, sì, questi sono nostri. Sono vostri? E come mai? Sì, insomma, erano ancora lì appesi, buoni buoni, con il talloncino del prezzo. Stia calmo, stia calmo. 5 giorni prima di Natale in un grande magazzino di New York, questo mi chiede di stare calmo. Sì. All'ultimo regalo, qualche giorno prima di Natale, scene d'altri tempi. Oggi non molti sono pronti a scommettere su una buona stagione di acquisti natalizi. Siamo già in recessione, dice Confcommercio, che prevede consumi in calo, anche se non disastrosi, e un Natale al risparmio, ma non peggiore di quello del 2010. Per 8 italiani su 10 sarà un Natale dimesso. Il dato nuovo è che questa flessione interesserà anche i settori tradizionalmente più forti, come la tecnologia. Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Per il Natale il sentiment delle famiglie appare tutto sommato non particolarmente depresso, diciamo come lo scorso anno, quindi niente, niente di speciale. Ci saranno dei cali dei consumi che riguarderanno soprattutto piccoli elettrodomestici, l'abbigliamento, e anche la tecnologia non è esente da qualche rischio, mentre sono sempre cresciuti i consumi di tecnologia, a Natale qualche possibile battuta d'arresto potrebbe esserci. E questo, diciamo, è un po' il senso della paura della recessione. Parola d'ordine, risparmio. Tra budget ridotti e caccia all'affare c'è chi si aspetta, però, il Natale peggiore degli ultimi 10 anni. Acquisti in calo anche del 20%, prevede il Codacons, per abbigliamento, calzature e viaggi. Quest'anno, concordano le associazioni dei consumatori, la voglia di Natale non riuscirà a battere la crisi. Pagate tutte le spese, calcolano Adusbef e Federconsumatori, per i regali resterà solo il 12% della tredicesima. 3 italiani su 10 sono intenzionati a spendere di meno rispetto all'anno scorso, conferma una ricerca di Yahoo Italia. Matteo Failla. Gli italiani molto probabilmente spenderanno meno rispetto agli anni precedenti. Più o meno il 31% spenderà meno di quello che era lo scorso Natale. È interessante, secondo me, valutare la cifra che è disposta a spendere una persona. Facendo riferimento al dato italiano, il 48% degli italiani ha deciso che spenderà una cifra compresa tra i 100 e i 500 euro. Il 36% invece avrà un budget budget ridotto e al di sotto dei 100 euro. Ovvio che in tutto questo poi c'è un 5% di fortunati che spenderanno comunque cifre superiori ai 1500 euro per i regali. Era la prima edizione Italia in controluce, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Le 6, 38 minuti e 10 secondi, dunque di nuovo bentornati a prima edizione, di nuovo buona giornata da Simone Spezzi. Adesso vogliamo fare un punto su come vanno le cose dal lato dello sciopero, che cosa ci si attende per la giornata di oggi. Adriana Fracchia, buongiorno. Sì, buongiorno, si attende un po' di caos perché è in corso da questa due giorni di scioperi dei trasporti, che è iniziata ieri con i servizi extraurbani e da ieri sera poi i disagi interessano tutti i cittadini che intendono muoversi in treno, mentre stamani scatta anche lo stop del trasporto urbano che coinvolge autobus, tram e metro. La protesta è stata proclamata unitariamente da tutti i sindacati del settore a sostegno dell'avvertenza per la sottoscrizione del nuovo contratto della mobilità e per protestare contro i tagli alle risorse destinate al trasporto pubblico collettivo operati dal precedente governo e non ancora ripristinati, dicono i sindacati, dall'esecutivo Monti. Gli addetti al trasporto ferroviario e le attività connesse saranno fermi dalle 21, sono già fermi da ieri sera e saranno fermi fino alle 21 di oggi, garantiti i servizi minimi indispensabili nelle due fasce 6, 9, 18, 21, oltre ai treni a lunga percorrenza inseriti nell'orario di Trenitalia per l'intera durata dello sciopero. Ferrovie dello Stato italiane fa sapere che circolerà comunque il 74% dei 460 convogli nazionali previsti in orario. Per tutte le informazioni invitiamo coloro che si devono spostare in treno a chiamare il numero verde di Trenitalia, il cui numero è 800 89 20 21. Per quanto riguarda invece la protesta del personale di bus, tram e metro dei servizi urbani, le modalità di sciopero saranno diverse da città a città. Ne citiamo alcune città principali: Roma, a Roma lo sciopero sarà dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20 a fine servizio. A Milano inizia alle 8.45 e dura fino alle 15 e poi riprende alle 18 fino a termine servizio. A Napoli dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. A Torino dalle 9 alle 12 e dalle 15 fino a fine servizio e a Palermo dalle 8.30 alle 17.30. E per il momento è tutto. A te la linea, Simone. Grazie dunque Adriana per questo punto della situazione su quello che ci aspetta. Noi adesso ci andiamo a collegare con New York. Mario Platero, buongiorno. Buongiorno. Anzi buongiorno. Buonanotte per te, a dir la verità. Allora, avevamo ipotizzato di fare insieme un punto su questo addio dell'America all'Iraq, e poi in realtà sono sopraggiunti eventi della notte, notizie tristi per il mondo della cultura, in realtà non solamente americana, e del giornalismo: la morte di Christopher Hitchens. Poi parleremo anche di Iraq naturalmente. Allora, Mario. Ma dunque, sì, la notizia l'ha data Vanity Fair, il giornale per cui lui scriveva. È stata, devo dire, una notizia triste. Molti di noi speravano che ce la facesse, perché il suo cancro era un cancro terminale, ma che avesse ancora parecchio da vivere, magari 6 mesi, magari un anno. Voleva finire un altro libro. Christopher Hitchens, ricordiamolo, uno scrittore britannico arrivato in America giovane, una trentina d'anni fa, e così si è immediatamente immerso nel mondo americano, un personaggio così molto controverso, un personaggio che riusciva sempre in qualche modo a scandalizzare, un personaggio che si ubriacava, che andava sotto la doccia con la sigaretta, che era ateo, però poi scopre di avere delle origini ebraiche, sempre, come dicevo, controverso. Ha scritto cose, devo dire, piuttosto importanti, ma soprattutto su Vanity Fair, grandi ritratti, e grande divulgatore di questo suo ateismo. Non tanto tempo fa è andato a Houston, dove ha ricevuto un premio proprio dall'Associazione degli Atei Americani, i Free Thinkers. Ecco, devo dire, lascia un grande vuoto. Aveva 62 anni, era molto più giovane, se vuoi, della sua età, ha scoperto di avere questa malattia tremenda non tanto tempo fa, insomma, praticamente un 6-7 mesi fa. Aveva solo per fine sviluppato uno slogan che era questo: non voglio morire di cancro, voglio vivere con il cancro. Purtroppo se n'è andato. Allora Mario, molto, molto, ha fatto molto discutere naturalmente Hitchens, ha fatto molto discutere anche la sua posizione sulla guerra in Iraq, una posizione nettamente a favore della guerra in Iraq, tanto che si è guadagnato l'appellativo di neoconservatore sostanzialmente, un appellativo che ha di fatto rifiutato, e però noi vogliamo restare su questo tema, perché poi alla fine dall'Iraq bisognava andarsene, l'America se n'è andata, e se n'è andata proprio ieri, insomma, un momento decisivo. Come l'ha presa, come l'hanno presa gli americani, come è stato vissuto questo momento? Ma dunque, devo dirti, come sempre succede, in modo piuttosto strano: da una parte tutto era molto normale, questa fine della guerra è stata una fine della guerra annunciata, è stata una guerra sicuramente controversa, ma alla fine non è stato il Vietnam, sono morti oltre 4.000 americani in Iraq, ricordiamolo, una guerra dura, una guerra difficile, giovani, una guerra che doveva finire presto e che è finita tardi. E in Vietnam ne morirono oltre 40.000. Fu una guerra che dilaniò il paese. Ecco, se devo fare un confronto, io non ero in America quando ci fu la fine della guerra in Vietnam, ma se devo fare un confronto ideale fra queste due guerre, qui si è archiviato un capitolo. La fine della guerra in Vietnam fu sentita molto di più dal punto di vista emotivo. Ecco, quel che è successo, però, ci sono due cose che ti voglio raccontare, che voglio raccontare ai nostri ascoltatori. Una riguarda questo ritorno di questi soldati, di questi ragazzi, che sono tornati molti apposta in sordina per fare una sorpresa di Natale, quindi c'è molto l'emotività del ritorno a Natale, e alcuni di loro, padri di giovani figli, sono andati bussando alla porta di casa per fare la sorpresa, sono entrati nelle scuole dei figli, mentre i figli magari erano ancora in classe. E insomma, c'è stato davvero questo tentativo di sorpresa, c'è stata una gran quantità di storie molto commoventi di questo genere. L'altra cosa è che naturalmente non sono state archiviate le stragi. Proprio ieri il New York Times, devo dire, sì, con un pizzico di cattivo gusto, ha pubblicato un articolo in cui si ricostruivano, sì, attraverso nuovi documenti. Sì, l'abbiamo raccontato, l'abbiamo raccontato, tra l'altro reperiti, l'abbiamo detto in una maniera particolare, perché trovati in una discarica, almeno questo è quello che ha raccontato il New York Times, in una discarica in Iraq. Grazie a Mario Platero, anche per insomma essere stato sveglio, un orariaccio quasi per lui. Grazie Mario e buona giornata. A prestissimo, grazie. Prima edizione. Eccoci qua, parliamo adesso dell'omicidio di questa notte a Roma, un nuovo agguato. Cristina Carpinelli, buongiorno. Sì, un agguato per le strade di Roma nel quartiere di Tor Vergata, che ha portato all'uccisione di un uomo di 38 anni, si chiamava Marco Attini, aveva dei precedenti penali, è stato ucciso da due killer in moto. Freddato da 4 colpi, si trovava in macchina con la fidanzata, che è ora ricoverata in ospedale. Si tratta di un fatto di cronaca che combacia quasi specularmente con quello avvenuto il 13 dicembre, quindi pochissimi giorni fa, sempre a Roma, quando un albanese, in questo caso di 54 anni, con piccoli precedenti penali, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco nel quartiere Casilino, sempre a Roma. Anche qui due uomini arrivati a bordo di uno scooter sono entrati nella sala scommesse SNAI dove si trovava la vittima e hanno aperto il fuoco sparandogli 3 colpi. A far scattare l'allarme per questo alzarsi appunto della violenza a Roma era stato, però, lo ricorderete, l'agguato del 10 di novembre nella centralissima e lussuosa piazza Nicosia, tra le più esclusive appunto e super controllate dalle telecamere a Roma, e nel quale appunto è stato ucciso un uomo. Quelli che vi abbiamo raccontato sono gli episodi più estremi di una serie di sospetti, regolamenti di conti della malavita avvenuti nell'arco di un anno nella capitale e presuppongono, secondo gli inquirenti, l'esistenza di una guerra tra bande criminali per il territorio. Per ora è tutto, Simone. Grazie Cristina, e sospettiamo che ci sarà qualche nuova polemica anche sul sindaco Alemanno nella giornata di oggi. Grazie a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci risentiamo tra poco col Giornale Radio.